versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo venerdì 3 di luglio, 16.31, primi 45 secondi, siamo in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e vi dice subito l'argomento della giornata per consentirvi di telefonare all'800240024, gli sms al 349-238-6666, anche se immagino questa almeno è concepita più come una puntata in cui ascoltare che intervenire, perché visto che siamo in attesa oramai domenica di capire cosa voteranno i greci sul referendum a cui è appeso il futuro, comunque sarà una svolta storica, qualunque cosa decidano, vinca il no o vinca il sì, sarà una svolta storica per le conseguenze che ne deriveranno, perché si tratta di una prima volta rispetto a paesi nelle condizioni in cui sta la Grecia, che ha i suoi torti infiniti per essere cresciuta sopra i propri mezzi per tanti anni, ma l'Unione Europea ne ha di altrettanto forti, perché se no non si capirebbe com'è che si riesce a dare più di 400 miliardi in 5 anni a un paese che ne ha 180 miliardi di PIL per metterlo in queste condizioni. Comunque capite quindi che ci sono pasticci infernali da tutte le parti. Vedremo domenica che cosa avviene e soprattutto vedremo le conseguenze che da quel momento si svilupperanno, visto che i greci, se dovessero vincere il no, che questa mattina nei sondaggi non troppo affidabili sui giornali greci stamattina il no è tornato a essere in lieve vantaggio, vedremo che cosa avverrà. Attenzione, perché il no potrebbe portare poi nel giro di 36-48 ore a condizioni nelle quali la BCE dovrebbe assumere comunque decisioni che sono politiche con la P maiuscola. Non riesco a capire con quale sostegno e con quale indirizzo da parte della politica europea, speriamo di non imbatterci in polemiche devastanti rispetto a quello che si proporrà di fare la BCE rispetto al risultato dei greci, ma comunque per questo dico, ne parleremo e vedremo. Proprio per questo però oggi, nell'attesa, ringraziando l'ospite che vi presento immediatamente, anticipiamo un rapporto annuale che in realtà verrà presentato pubblicamente, dibattuto e pubblicato alla stampa, reso noto alla stampa lunedì prossimo, però lo anticipiamo perché è bene ragionare di queste cose prima che la polvere che inevitabilmente si eleverà a colonne sul risultato della Grecia levi l'attenzione sulla condizione in realtà della finanza pubblica e della crescita del nostro paese. Allora, lunedì si presenta il rapporto annuale, è un appuntamento che è diventato fondamentale per tutti quelli che fanno il mio mestiere, cioè seguire l'economia e la finanza pubblica italiana, è il rapporto annuale del Centro Studi Economia Reale, e un centro studi che è diretto e presieduto da Mario Baldassarri. Mario Baldassarri è stato vice ministro dell'economia nel governo Berlusconi, non è più in politica, però è un economista che al di là della declinazione politica che ha dato nel tempo, solido di formazione, studi e approfondimenti negli Stati Uniti. E questo rapporto annuale, siccome è diviso in due parti, uno che è di analisi sul passato e un altro sulle previsioni, ha sempre avuto, sempre più nel tempo, anno dopo anno, il merito di andare ai punti dell'impostazione, di ciò che non ha funzionato nell'impostazione di finanza pubblica nel passato, e proponendo ogni anno un'alternativa per tornare a crescere più rapidamente. Attenzione, non proponendo di ignorare i vincoli di finanza pubblica, fare a pezzi le regole europee e così via, ma semplicemente impostando in maniera diversa le maggiori poste, le maggiori scelte, cioè quelle sulla spesa pubblica e quelle sulle imposte. Allora, vi dico solo, prima di dare a lui la parola, che quest'anno, e lunedì ci saranno tutti i particolari di questo rapporto, è ancora più interessante, per così dire, dal mio punto di vista, perché nella parte che riguarda le analisi, cioè il passato, che cosa ha determinato il fatto che la crisi italiana sia stata così pesante e le caratteristiche di questa ripresa per il momento molto lenta, ci sono delle analisi relative anche a quanto la corruzione ha pesato in questo risultato negativo, quanto non aver fatto delle scelte per alleviare i troppo tartassati e invece nel continuare a strizzare l'occhio verso chi evade abbia a propria volta approfondito l'intensità della crisi. E c'è anche un esercizio molto interessante per me sugli effetti di minor crescita e quindi di maggior disoccupazione che in Italia ha rappresentato il costo del super euro, cioè gli errori della BCE dei tempi di Trichet. Poi invece, quando si va alle previsioni, c'è una proposta molto seria su cosa potremmo fare con la finanza pubblica attuale per evitare di dover aspettare il 2026-2027 per vedere il PIL tornare al pre-crisi, perché attualmente il rischio è quello, e sempre che non cambino le condizioni favorevoli internazionali da cui al prezzo del petrolio, e dover aspettare magari il 2030 per tornare ad assorbire i 3 milioni e mezzo di disoccupati che ci abbiamo, perché anche quella è purtroppo la prospettiva di questa debolissima ripresa italiana. Allora, grazie a Mario Baldassarri di essere con noi. Buonasera Giannino, buonasera agli ascoltatori. Allora, in questa prima parte tentiamo, ci sintetizza qual è la stima che c'è nelle analisi del maggior effetto di intensità di crisi di disoccupazione per effetto delle scelte fatte nel passato dell'Italia e come avrebbero potuto essere fatte diversamente? Beh, lei ha correttamente citato che nel 2001 ero membro di governo e viceministro dell'economia e il DPF di quell'anno conteneva le linee di politica economica specifiche in termini di tagli di spesa corrente, sprechi, malversazioni, ruberie, cioè la corruzione della spesa pubblica, e una lotta all'evasione che potesse dare risorse per ridurre la pressione fiscale ai tartassati. Però quello è rimasto scritto in quel DPF, come si chiamava allora l'attuale DEF. E allora ho voluto simulare dal 2002 al 2014, se avessimo sul serio fatto tagli di spesa mirati, recupero dell'evasione e quindi ridotto la pressione fiscale. Perché lei era contrario, ricordiamolo, lei era ricordato ai tagli lineari che furono poi quelli effettuati da Tremonti e che ohimè. La mia pazienza durò 5 anni di governo, poi finì, si esaurì quella pazienza. Ma al di là delle battute, non è un problema personalistico, è un problema di realtà dell'economia italiana. Allora abbiamo simulato come sarebbe andata l'economia italiana se a partire dal 2002 fino al 2014 si fossero adottate quelle linee di politica economica. In sostanza è quanto è pesato il costo della corruzione, cioè di quei 40-50 miliardi di euro all'anno che, a detta della Corte dei Conti, fanno spesa pubblica, ma in termini appunto di sprechi, malversazioni e ruberie varie, e quanto ci è costato non recuperare i noti 100 miliardi di evasione fiscale. Noi facciamo delle ipotesi molto prudenti, nel senso che abbiamo immaginato che il programma partisse nel 2002, andasse a regime nell'arco di 2-3 anni e poi tutti gli effetti fino al 2014. In sintesi, il costo della corruzione ovviamente è una valutazione macroeconomica fatta con i modelli econometrici, quindi non è che giuro sulla cifra, però ci dà un ordine di grandezza importante, e cioè il mancato taglio di quelle voci di spesa corrente ha determinato una perdita di PIL, di prodotto lordo, che a fine 2014 è attorno a 150 miliardi di euro, cioè sostanzialmente il 10% del PIL. E dall'altro lato il costo della corruzione, cioè la mancata lotta alla corruzione che possa consentire di alleviare i tartassati, ha prodotto altri 100 miliardi di mancato PIL. Quindi fra corruzione e costo dell'evasione abbiamo perso dal 2012 al 2014 200-250 miliardi di PIL. Cosa vuol dire questo? È che la conseguenza è stata circa 1,5 milioni di occupati in meno e quindi 1,5 milioni di disoccupati in più, e condizioni di finanza pubblica assolutamente fragili e precarie, perché ha voluto dire maggiore deficit pubblico e un debito pubblico che nel 2001 era 1,300 miliardi di euro, che ad oggi sfiora i 2.300 miliardi di euro, cioè 1.000 miliardi di debito pubblico in più, che con una linea di politica economica severa ma mirata ce li saremmo evitati tutti. Che vuol dire? Che la crisi di questi anni dal 2007 in poi pesantissima, dove appunto abbiamo perso il 10% di PIL, abbiamo raddoppiato la disoccupazione, non parlo della disoccupazione dei giovani, e abbiamo continuato a tappare i buchi di finanza pubblica, non tagliando quelle voci di spesa, anzi lasciandole aumentare, ma aumentando le tasse e tagliando gli investimenti pubblici, pur di mantenere un fragile e precario equilibrio di bilancio, mentre il debito pubblico ha continuato a crescere. Queste radici sono tutte endogene. Nel rapporto io scrivo: la crisi italiana ce la siamo costruita con le nostre mani. Ce la siamo costruita con le nostre mani. Non c'è per niente il mondo, l'Europa. Esatto, l'Europa, l'euro. Aspetti un secondo, poi arriviamo adesso all'euro. Io fino a questo momento, siccome le do atto, e poi vedrete chi andrà a scaricare sul sito di Economia Reale, io invito gli ascoltatori a farlo, troverete che questa sintesi, in realtà per ognuna di queste cose ci sono gli estremi, i grafici, il modello econometrico delle valutazioni e così via, cioè non sono numeri buttati a caso. Io mi permetto di dire, un'opinione mia, che in sintesi queste due grandi voci che abbiamo visto, cioè la mancata lotta alle voci di spesa pubblica che identificano la malversazione all'interno della spesa pubblica e in collusione con il mondo privato che ne approfitta, e una impostazione fiscale che consentisse la lotta all'evasione abbassando però le tasse da tassati, non per accumulare risorse aggiuntive al crescere della spesa corrente, questi due capitoli sono ai miei occhi la sintesi purtroppo dell'errore gravissimo dei governi di destra, al governo, non aver fatto quello che Baldassarre poi negli anni ha continuato anno dopo anno ad aggiornare, perché quella era l'impostazione da seguire. Questa secondo me è la sintesi economica del perché il centrodestra italiano non è europeo e alla fine ce lo troviamo un centrodestra che è più a sinistra di Tsipras. Non esiste nessun altro paese europeo così, non esiste perché in Francia l'UMP non segue la Le Pen, non esiste perché i popolari di Rajoy in Spagna col cavolo che sono a sinistra dei Podemos, c'è solo in Italia, ma si vede da queste scelte economiche che hanno avuto delle conseguenze bestiali. Però, cosa interessante, veniamo, siccome questi due fattori sono italiani, no? Interni, come ha detto Baldassarre, però Baldassarre aggiunge nella stima degli effetti dell'intensificazione della crisi italiana dovuta anche un terzo fattore, in quel caso sì, europeo, cioè alle politiche di cambio seguite dalla BCE ai tempi di Trichet. Così Baldassarre? Esattamente così, nel senso che a sua volta la crisi europea di cui parliamo è dovuta tutta agli errori di politiche economiche, monetarie e di cambio dell'Europa, non c'entra niente anche qui il resto del mondo, cioè anche la crisi europea è costruita con le mani degli europei. Abbiamo fatto una simulazione molto banale, io ho avuto modo negli anni di confrontarmi duramente con Jean-Claude Trichet quando decise di aumentare i tassi di interesse in Europa quando la Federal Reserve americana li stava diminuendo, portandoli quasi a zero. Io dissi: ma questo ha come effetto un super apprezzamento dell'euro. Diciamo che la Fed li abbassò, visto l'effetto di poi la bolla finanziaria generata, troppo. Noi invece andammo troppo nella direzione opposta. Siamo andati in controtendenza, esatto. Addirittura, e abbiamo addirittura accettato, ho voluto, un euro che era arrivato a 1,58, sì. 1,60, e dicevamo che l'Europa aveva la moneta più potente e più forte del mondo, senza capire che quella rendeva l'economia europea la più debole e la meno in crescita del mondo. E questo nella sua simulazione che effetto ha determinato direttamente sull'Italia? Allora, abbiamo immaginato che invece il cambio si mantenesse attorno alla parità con il dollaro, che poi è il livello fisiologico. Adesso con Draghi, fortunatamente, che ha salvato l'Europa proprio negli ultimi due anni, siamo a 1,10 sostanzialmente, ma al di là dei numeretti, il costo del super euro, che lo abbiamo valutato per tutti i paesi europei, poi le dirò una cosa che forse può apparire sorprendente, ma sorprendente non è, il costo del super euro per l'Italia è significato sempre dal 2003 al 2014, da quando è cominciata la storia del super euro, 170 miliardi di PIL perso in meno, e anche qui effetti a catena su un milione di disoccupati in più, su un tasso di disoccupazione che era al 6% nel 2007, è balzato al 13% nel 2014, quindi è aumentato sostanzialmente di 7 punti. Bene, il cambio dell'euro e del super euro ci ha determinato due terzi di questa maggiore disoccupazione. E la cosa paradossale, che vale per l'Italia ma per tutti gli altri paesi europei, è che questo errore nella politica del cambio ha creato le crisi dei debiti sovrani, cioè esatto, ha messo in crisi le finanze pubbliche dei vari paesi. Su di noi è significato sostanzialmente un 38% in più nel rapporto debito-PIL, cioè saremmo stati sotto al 100%. Sotto al 100%, sì, sotto al 100%. Ecco, oggi saremmo quasi alla media di quel 90% a cui è arrivato. Esatto, poi, quasi come prescrive quel famigerato esatto, Fiscal Compact, che è un trattato stupidissimo. Però voglio dire stupidissimo perché fa riferimento a dati aritmetici, esatto, non alla realtà. La cosa sorprendente è che facendo questa analisi, ovviamente a valere per tutti i paesi dell'area euro, chi ci ha rimesso di più in termini di PIL potenziale e di occupazione potenziale, quindi di benessere, è la Germania. La Germania, sorpresa. Il secondo paese è l'Italia e un po' meno la Francia, la Spagna e la Grecia. Allora, perché? Adesso ci fermiamo per 60 secondi di informazione stradale e passiamo poi, quando torniamo, alla proposta per il futuro, invece, cioè a come, impostando una legge di stabilità adesso, si potrebbe accelerare la ripresa in corso rispetto a quella asfittica che vediamo in questo inizio 2015. A tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi 45 secondi, e con noi il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, anni fa viceministro dell'economia al governo Berlusconi, poi il centrodestra del governo non seguì la sua linea, ma quella di Tremonti, gli effetti li abbiamo visti, e stiamo anticipando il rapporto annuale con una parte di analisi per il passato e poi le previsioni per il futuro che verrà presentato lunedì appunto a Roma dal Centro Studi Economia Reale. E con noi il professor Baldassarri, e andiamo adesso alla parte invece che riguarda il futuro, cioè voi avanzate delle proposte rispetto agli andamenti attuali della tossicchiante ripresa italiana e quantificate l'effetto delle misure che proponete come la possibilità di raggiungere addirittura un livello pre-crisi di prodotto e di occupati è 8-10 anni prima di quanto semplicemente inerzialmente oggi sembrerebbe che il basso tasso di crescita italiana ci destini a raggiungere. Di che si tratta? In che cosa potrebbe essere diverso le scelte della prossima legge di stabilità secondo lei, Baldassarri? Beh, intanto noi partiamo da una previsione base tendenziale, cioè alla luce di tutte le informazioni che avevamo il 10 giugno scorso abbiamo prodotto la nostra previsione, e la nostra previsione indica che quest'anno avremo una crescita del più 0,6%, dall'anno prossimo in poi dovremmo attestarci attorno all'1%. Questo vuol dire che quest'anno usciamo dalla recessione, ma il problema è quando usciamo dalla crisi. Certo, meglio il segno più che meno, come l'anno scorso. E dopodiché abbiamo fatto vedere però che se quest'anno non avessimo avuto l'euro a 1,10 e il petrolio a 60 dollari, e quindi se euro e petrolio fossero rimasti ai valori dell'anno scorso, del 2014, noi quest'anno avremmo avuto una crescita del meno 0,7% e l'anno prossimo del meno 0,8%, cioè il messaggio qual è? Stiamo uscendo dalla recessione, abbiamo visto il segno più davanti alla crescita del PIL, ma è dovuto tutto a variabili esterne. Che non sappiamo quanto dureranno, perché sa Dio il petrolio poi quanto... Questo è l'altro punto, queste variabili esterne aprono una finestra d'opportunità favorevole. Ma la seconda considerazione è che queste variabili esterne da sole ci portano a crescere attorno all'1%, e con questi ritmi abbiamo fatto il conto a lungo termine, e noi recuperiamo il PIL nel 2023-24, quello che avevamo nel 2007, e la disoccupazione tornerà al 2007, nel 2026, nel 2027. Che si può fare invece? Ecco, il che vuol dire che però che un ragazzo che aveva 25 anni nel 2007, quando saremo fuori dalla crisi, ne avrà 45. È un po' tardino, sì. Cioè abbiamo costretto una generazione a vivere 20 anni centrali della propria vita in fondo al pozzo della crisi. Quindi con sfiducia assoluta. Ecco, che fare? Ecco. Viene un po' automatico. Perché è chiaro che non è che dobbiamo andare a dire allora ricominciamo a fare 10% di deficit, spesa pubblica, abbassiamo le tasse a tutti e quant'altro. Quella demagogia durerebbe 3 settimane in un paese con un debito pubblico come quello italiano. E invece... discutiamo il casino della Grecia con un debito pubblico che sono 320 miliardi di euro, quello greco. Quello italiano sono 2.300 miliardi di euro. Dunque, quindi, andiamo alle proposte. La proposta è molto secca, e cioè dobbiamo in qualche modo affrontare Scilla e Cariddi. Non l'abbiamo fatto per i 14 anni passati e adesso dobbiamo farlo. C'è una finestra d'opportunità. Cosa sono Scilla e Cariddi? La lotta alla corruzione, la lotta all'evasione, ma scritta nella prossima legge di stabilità nero su bianco, cioè budget precisi agli acquisti di beni e servizi, forniture di tutte le pubbliche amministrazioni, possibilmente bloccati ai valori dell'anno scorso. Queste risorse sono circa 20 miliardi, verrebbero dai risparmi sugli acquisti di beni e servizi, dove dentro la fa da padrona la parte degli acquisti della sanità, che non c'entra niente con la salute degli italiani. E smettiamo di erogare ogni anno 25 miliardi, su 35 che sono in totale, 25 miliardi di trasferimenti cosiddetti a fondo perduto, che vengono erogati a pioggia, 17 miliardi dalle regioni, 8 miliardi dal governo centrale. Questa, lo ricordo chi è in ascolto, questa è una battaglia storica di Baldassarri, io sottoscrivo a piene mani. Voi capite che naturalmente le regioni ci campano con questi contributi a fondo perduto, ed è una roba che ha distrutta la possibilità di fare impresa vera in ampia parte dell'Italia, soprattutto al sud. Quindi questa ha una ricaduta immediata. Chi dice se tagliamo quelli diminuiamo il PIL, dimentica che così abbiamo distrutto la possibilità di fare impresa vera, invece, con il più di quei 17 miliardi fatti dalle regioni a fondo perduto di cui parla Baldassarri. Sono cifre cui molti di voi in ascolto, lo capisco, lo vedo subito, non credono, perché sono troppo elevati, e invece queste sono, la politica ha sempre fatto finta di non sentire, perché lì c'è una radice di consensi che però distrugge l'economia. Professor Baldassarri. Eh sì, abbiamo dimenticato, Giannino, di dire ai nostri ascoltatori che i numeri che cito sono numeri ufficiali tratti dal sito dal Ministero dell'Economia e Finanze, non sono numeri che mi invento, sono dati ufficiali, quindi questi sono i dati. Allora, accanto alla manovra, chiamiamola così, taglio di spesa, taglio di tasse alle famiglie e alle imprese, con il vero azzeramento dell'IRAP alle famiglie e con uno sgravio di 15-20 miliardi di IRPEF ai lavoratori e quindi alle famiglie stesse, l'IRAP per le imprese azzerata, e un 5 miliardi in più di investimenti pubblici di cui l'Italia ha assolutamente bisogno, infrastrutture, tecnologie e quant'altro. Accanto a questa, proponiamo la manovra di abbattimento serio del debito pubblico attraverso il Fondo Immobiliare Italia, che acquisisce la proprietà di tutti gli immobili pubblici, emette obbligazioni con opzione, in modo che i mercati finanziari possano, con l'opzione convertibile in azione, partecipare al maggior valore che lentamente negli anni 10, negli anni, quindi non è un'operazione di dismissione a qualunque prezzo immediato. Allora, io dico agli ascoltatori, queste proposte, il cui ammontare, come vedete, è di decine di miliardi di minor spesa tradotte in immediate tagli alle tasse e l'abbattimento del debito con strumenti straordinari che non sono svendita, e quello che ai miei occhi è una destra vera, moderata, liberale, liberista, in Italia non c'è. Lunedì leggetevi il rapporto e scaricatelo sul sito. Intanto grazie al professor Baldassarri, continuate con Radio 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12, i conti della Belva con Carlo Alberto, Mario Seminario, Cifarello e me.